Buongiorno, questa era la campanella e oggi è una bella giornatella. Io sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Ti devi lasciar prendere dal passo, passo, passo. Passo, passo, e imboccare quel sentiero che ti indica il ritmo. No, no, no, no. Camminiamo a tempo, tempo, tempo, tempo. Un lento violento, voglio dedicarlo a Luca. Sono passati 9 mesi da quando ci siamo ritrovati, ma i miei sentimenti non sono cambiati. Step. Il cammino di Gigi D'Agostino. Benvenuti nel mondo che non c'è. Dite a Peppe che lo amo. Io sono Giorgia e scrivo da Faenza. D'ora in poi, ascolta ciò che vuoi. Dal tuo salotto alle 18. Ogni giorno ti gira intorno, intorno, con questa musica, musica, e un buongiorno. La musica vendetta. Quando il sesso va bene, conta il 10% in una relazione. Quando va male, rappresenta il 90% della relazione. E non sono tanto d'accordo qua. Danilo da Livigno. E non va bene così. Il cammino di Gigi D'Agostino. D'Agostino, il tuo peperoncino. Sono Giovanni da Serra Capriola. Petronilla, ti amo. Mi piace suonare un tormento contento e che il movimento sia lento e violento. È il cammino del Gigi D'Agostino. Sono Mauro da Padova. Potresti salutare la mia piccola Asia, che sta ascoltando Gigi D'Agostino. Le sta spuntando il primo dentino. Lento, violento, stiamo attenti, andiamo lento. Ci conosciamo, ma ti ascolto tutti i giorni. Lavoro con il furgone e faccio le consegne con la tua musica. Che spettacolo, mi carica. Massimo 72. commenta proprio. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarre. Ci sono due modi per diffondere la luce: essere la candela, oppure lo specchio che la riflette. Siamo stimando che sta suonando Gigi D'Agostino. Santo Stefano, lento, violento. Martedì sera, 26 dicembre 2006, dalle ore 22, Gigi D'Agostino suona a Cigliano, vicino a Torino. Discoteca 2. Vieni tu e le amiche tue. Vieni a Cigliano. Prendiamoci la mano. Discoteca 2. Infoline 392 822 5259. Il cammino di Gigi D'Agostino. D'Agostino al basso, lento, violento, lento, violento. 1, 2, questa è la marcia. 2, 1, 1, 2, 1, 2, questa è la marcia. Non è importante quanto lunghi sono i tuoi passi, passi, passi, passi. L'importante è che non ti fermi. Sabato 16 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona a Latina, discoteca 24.000 baci. Gli farò un'offerta che non può rifiutare. Cammino di Gigi D'Agostino. Il tuo antidepresso. Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che pesta. Yeah. volete scrivermi. P, 3, 3, 3, 6, 4, 6, 7, 6, 6, 2. Ciao Maestro Gigi, sono Daniele di Torino. Fai gli auguri a quel tamarro di mio fratello Gabriele, che ieri ha compiuto 21 anni, dedicandogli un tuo lento violento. Auguri Gabri, Daniele, mamma e papà. Danzatori, chiamate i vostri genitori, sverti va, qui c'è musica che pesta, suona il maestro e roba onesta. Questo è il cammino di Gigi D'Agostin, mica non sciolento. Ciao maestro, volevo dedicare Passo Felino a tutti i tamarri. Un saluto da Diego di Susa. Mi sono innamorata con la tua musica. Mi sono sposata e mio figlio di 3 anni canta la tua canzone Fa Titico. Elena da Lucca. Sono Marco da Monta. Volevo dedicare ginnastica mentale al mio amico Luca, che ieri ha compiuto 22 anni. Ciao raga. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ora vado a pinciare un brano muy incassato che te scassa la casa, che con la casa che te scassa, oh, la porta non riusciva a spiegarmi. Gigi, facci incazzare di più. Raul e Cristiano Cassino, due pugili in allenamento. Bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and b oggi. Veloce, veloce. Netto, violento. Un bacio alla mia piccola stella Eleonora. Sia là. Ciao, sono Gigi D'Agostino. E ho qualche piccolo problema di equilibrio al suolo. Volevo dire al mio amore Andrea che lo amo tanto e di non aver paura, perché andrà tutto bene, perché noi insieme siamo forti e supereremo anche questa. Michela da Milano. Un viaggio incontaminato, un sentiero innamorato, la semplicità di un bambino, il cammino di Gigi D'Agostino. Con l'amore non si fa commercio al mercato. La sua gioia, come la gioia dell'intelletto, è di sentirsi vivo. Lo scopo dell'amore è amare, né più né meno. Oscar Wilde. Prendiamo il cammino tra qualche minuto. Sali in sella e suonate la campanella. Ciao Marilu, ti amo tanto. Salvatore di Raffadali. Il cammino di Gigi D'Agostino. Non sono un uomo diverso, sono un po' perso. Volevo dire alla mia migliore amica Marta che è la persona più speciale di questo mondo. Sele da Livorno. Hola hombre. Hola puta. Passeggio lentamente per Padova, indifferente. Il passo del mio cammino lo decidi tu. Gigino, Gigino, Gigino, Gigino, Gigino, Gigino, Gigino. Non è che siamo qui a snocciolare. Santi di Spezia. Ero ballato. Quiero bailar. Música mental. Quiero bailar. Música mental. Quiero bailar. Música mental. Quiero bailar. Intendo otra cosa, la mia mente es musicosa. Non intendo otra cosa, la mia mente es musicosa. No, così. Sabato 16 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona Latina. Discoteca 24.000 baci. Porom porom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom Signore e signori, in console c'è Gigi D'Agostino. Bora, bora, bora. Il cammino di Gigi D'Agostino. puede matar. Vedi un po' che devi fare. È come se tutto fosse strano. Aria, sulle mani. È come se tutto fosse strano. Aria, sulle mani. Per Gigi D'Agostino. Aria, per Gigi D'Agostino. Sulle mani. Per Gigi D'Agostino. Aria, per Gigi D'Agostino. Sulle mani. Per Gigi D'Agostino. D'Agostino. Aria, per Gigi D'Agostino. Sulle mani. Aria per Gigi D'Agostino. Sì, aria. Sì, aria. Fermamosi un momento. Parte lento, violento. Santo Stefano, lento, violento. Martedì sera, 26 dicembre 2006, dalle ore 22, Gigi D'Agostino suona a Cigliano, vicino a Torino. Discoteca 2. Vieni tu e le amiche tue. Vieni a Cigliano, prendiamoci per mano. Fermamosi un momento. Infoline 392-822-5259. Parte maestro, corte adro, er burattino. Gigi D'Agostino. Sì, sì. Suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Why am I leading the lonely life? Can you feel the way I'm so tired? Say goodbye. Don't forget about me tonight. 'Cause my heart is not going to die. Just a love I could not deny. You will listen to me for. Consiglieri, aiutanti ed amici non sono quelli che ci dicono come agire in certi casi specifici, ma quelli che ci danno, tirando fuori da sé, l'ardente spirito e desiderio di agire bene, lasciandoci scoprire qual è il nostro dovere. Phillips Brooks. We'll be right back.

Gigi D'Agostino, una musica infinita che racconta la vita, che racconta la vita. Ho fatto un sogno di quelli strani, guardavo un cielo pieno di mani, mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire, mani che pensano, che vogliono dire, che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani che mi donava il mio domani. I bambini, indenni da convenzioni sociali, lasciano libero corso alla capacità espressiva del corpo, restando i depositari della lingua madre dell'uomo, fino a quando, crescendo, non imparano a censurare il proprio fisico e a modulare la messa in scena delle emozioni in funzione degli sguardi che li circondano. Pensavo di non farcela e invece l'ho letta e l'ho anche capita. Guardo di là, ma vengo di qua. È il momento della pubblicità. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Every day I pray, every day I say, matter of fact, I really need you every day. People still gon' talk, some may be pumped, but don't worry girl, I'm really gonna drop. When the sun is down, when the moon's gonna shine, girl, I really wanna be with you. Every hour, every minute, every day, every year, come on girl, please stay with me. I think this girl wanna ride with me, talk with me, freak with me. She wanna be my Cinderella, my señorita. In the hot puppy, now she's a witch. I wanna test if it's true that she really that for me. I heard a lot about her, that she make it grow me silly. Go down to me, just cry. Call me bullet, come on. Tutti i nostri sogni possono diventare realtà se abbiamo il coraggio di perseguirli. Walt Disney. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as as you stand, stand by me. Dedico Please Don't Cry ad Alice, Giada e Cristina, le cheerleaders di Villa Di Serio, perché sono davvero speciali. Un bacio da Mickey. Ti amo, sono perduto, è tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Stefano Lento Violento. Martedì sera, 26 dicembre 2006, dalle ore 22, Gigi D'Agostino suona Cigliano, vicino a Torino. Discoteca 2. Vieni tu e le amiche tue. Vieni a Cigliano, prendiamoci per mano. Infoline 392-822-5259. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica ben detta. Thank you. di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Let the rain come through, sunshine. Let the dark turn into light. I don't wanna be a past or a meaningless name unknown. Let the sadness turn to joy. Let the sadness be my heart. Be close to you makes me feel so good inside. Ci sentiamo domani. Grazie.